24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi la giornata nera sui mercati finanziari europei, in particolare a Milano, mentre la Commissione europea chiede ulteriori dettagli alla Spagna sul programma di austerity. E c'è spazio anche per una polemica tutta economica tra Roma e Madrid. Parleremo di finanziamento pubblico ai partiti in Europa, a chiudere un film italiano che ha fatto parlare di sé a Berlino. In apertura, come anticipavamo nel sommario, la difficilissima giornata sui mercati finanziari europei che ha visto Piazza Affari nell'occhio del ciclone. FTSE MIB in calo del 4,98%, ma sono andate male anche Parigi, Madrid e Francoforte. Lo spread tra BTP e Bund ha superato la soglia di 400 punti. Una boccata d'ossigeno durata neanche tre mesi, poi i soliti noti fondi speculativi e manovratori a ribasso a tornare all'attacco dell'euro, a provocare ad ogni costo il crollo delle borse e dei titoli di Stato, al punto che lo spread fra BTP e Bund è tornato sopra quei livelli che si pensava fossero stati abbandonati per sempre, quelli dell'autunno nero, 400 punti base. Non c'è pace per i mercati finanziari, in particolare per quelli europei. Ieri un'altra giornata da dimenticare e Piazza Affari a pagare il dazio più pesante, alla lasciare sul campo il 5% sotto il peso delle banche, ma non solo. Parigi segna meno 3, Francoforte meno 2,5, Londra meno 1,7. Tutta colpa del rischio recessione, dei paesi dove si voterà, degli Stati Uniti, dicono, della disoccupazione di marzo peggiore delle attese. Strano però che a fronte di questo dato Wall Street regga e sia all'Europa ad andare a picco. In pochi credono che si debba attraversare l'oceano per individuare i motivi della pressione sulla borsa degli ultimi giorni. Più chiaramente la settimana si è notata contro i paesi periferici, Italia e Spagna in testa, la martellante campagna anglosassone che è tornata a tenere sulle corde quei governi affinché mettano in campo riforme severe e massima rigidità nel controllo dei conti pubblici. E così l'allarme spread ha ripreso a suonare. Deborah Rosciani, Radio 24, il Sole 24 Ore. In Europa la Spagna è tornata sotto i riflettori. Secondo la Commissione, i tagli approvati dal governo iberico vanno nella giusta direzione, ma Bruxelles attende ancora di conoscere i dettagli dei risparmi che faranno le regioni iberiche, nonché il programma di riforme, perché al momento manca un quadro generale del budget spagnolo, ad affermarlo un portavoce della Commissione europea. E per combattere gli attacchi speculativi degli ultimi giorni sul debito, il governo spagnolo avrebbe deciso ulteriori tagli alla spesa pubblica per altri 10 miliardi nella sanità e nell'educazione. Così riferisce la stampa spagnola dopo la riunione della cellula di crisi economica dell'esecutivo, presieduta dal premier Mariano Rajoy. Il governo spagnolo ha già adottato a fine marzo una manovra da 27,3 miliardi di euro, la più pesante dalla fine del franchismo, per rispettare l'obiettivo imposto dall'Unione Europea di riportare il deficit pubblico al 5,3% nel 2012. Se l'economia spagnola quest'anno si deteriorerà più delle attese, sarà necessaria un'ulteriore iniezione di liquidità nel settore bancario. A dichiararlo il membro del board della BCE e governatore della Banca di Spagna, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Quest'ultimo ha dichiarato che, nonostante la Spagna abbia fatto progressi adottando riforme strutturali e tagliando le spese, il governo deve continuare senza pause a implementare le riforme necessarie per far tornare a crescere l'economia. E da Madrid intanto arrivano anche critiche all'Italia. Sentiamo Luca Veronese al microfono di Maria Peraceci. Il governo, dopo aver presentato alla fine di marzo la manovra record a 27 miliardi di euro per quest'anno, ha fatto un nuovo annuncio dicendo che serviranno altri 10 miliardi. In effetti la manovra precedente non era servita a calmare né i mercati né era servita a placare in qualche modo i dubbi dell'Unione Europea e della stessa Banca Centrale Europea, che avevano chiesto a Madrid di intervenire con decisione sia sul bilancio che sulle riforme. Un intervento, fra l'altro, che il governo di Mariano Rajoy, conservatore a Madrid, aveva giudicato del tutto inopportuno e quindi fuori luogo. E certo è che la Spagna insiste e cerca di venire fuori da questa situazione. Oggi gli spread, quindi il differenziale con il titolo tedesco a 10 anni, sono saliti ai massimi da quando appunto Rajoy è salito al governo, e anche oggi l'IBEX, l'indice di borsa di Madrid, è il peggiore in Europa. E quello che deve fare la Spagna probabilmente è riuscire a convincere di essere ancora credibile, convincere sia i mercati, gli investitori che i partner europei, e questo forse succederà solo con il primo quarto, con il primo trimestre, quando i dati di bilancio sia del governo centrale che delle regioni, che sono il vero nodo da sciogliere, daranno risultati positivi. Ecco Luca, sono arrivate da Madrid anche critiche all'Italia. Sì, infatti... Pulpito però? Esatto, però è una critica, è una guerra fra poveri, nel senso che la Spagna si lamenta del fatto che fa capire che Mario Draghi, l'italiano della BCE, in questo momento non li sta aiutando, fa capire che l'Italia ha guardato solo a se stessa senza fare squadra magari in Europa o senza cercare un appoggio. Certo è che la Spagna si trova in difficoltà molto più gravi ora di quando l'Italia stava male, è come se in Europa i mercati, gli investitori, gli speculatori cercassero sempre un malato da colpire, e quando qualcuno si tira un po' più su, come succede all'Italia in questo periodo per fortuna, qualcun altro invece viene colpito con più durezza. La sorpresa cresce per il secondo mese consecutivo l'export tedesco a febbraio, sostenuto da una forte domanda dai paesi extracomunitari. Il costo complessivo del Parlamento italiano, tenendo conto delle spese per gli immobili e per gli stipendi, ma anche di tutti i collaboratori, è più elevato in Italia che negli altri paesi europei, così il presidente dell'Istat Enrico Giovannini. Quanto ai parlamentari, le retribuzioni sono più alte rispetto a quelle degli altri paesi continentali, ma se sommiamo tutti gli altri costi, in alcuni casi ci sono paesi nei quali le spese per i parlamentari vanno anche oltre l'Italia, così ha concluso Giovannini. Intanto la politica italiana, dopo lo scandalo dei fondi pubblici presuntamente sottratti dalla famiglia Bossi alla Lega Nord, prepara contromisure. I magistrati della Corte dei Conti sono pronti a controllare i bilanci dei partiti. L'esigenza di trasparenza può essere garantita dalla Corte, che da 150 anni svolge controlli, così il presidente dell'Associazione dei Magistrati della Corte, Angelo Buscema. Questo dunque è il dibattito in Italia, ma come funziona negli altri paesi europei per quanto riguarda il finanziamento agli schieramenti politici? Sentiamo. Sistemi su misura in ogni paese. La Francia ne ha trovato uno nel 1988 e dopo una serie di scandali è divenuto definitivo nel 2003. Si può dire che i soldi arrivino in base ai risultati, perché per averli i partiti devono avere ottenuto alle politiche almeno l'1% dei voti in 50 circoscrizioni. Superata la soglia, i contributi sono generosi, circa 1,63 euro per ogni voto ogni anno e per 5 anni, ma i limiti sono ben precisi. Vengono tagliati se i partiti non rispettano le pari opportunità. Sono vietati i finanziamenti esteri, è obbligatorio l'uso dell'assegno e alle presidenziali c'è un tetto massimo. In Gran Bretagna ci sono tre forme di finanziamento invece. Oltre a quote di iscrizione e sempre più frequenti donazioni e prestiti, Camera dei Lord e Camera dei Comuni elargiscono fondi, ma con un principio ferreo: solo all'opposizione, per non sfavorirla nella competizione. Ben cinque forme di finanziamento infine sono previste da una legge federale in Germania: quote degli iscritti, contributi obbligatori di chi viene eletto, 10.000 euro all'anno, contributi volontari dei privati per il 15%, mentre i soldi pubblici sono rimborsi blindati da richieste puntuali entro il 30 settembre e da un rendiconto dettagliato ogni anno. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Attività economica ancora in crescita per i paesi dell'area OCSE. A febbraio il superindice è salito a 100,5 punti. Il dato continua a segnalare il momento di svolta positivo dell'area, ma con qualche divergenza tra le maggiori economie. Giappone e Stati Uniti mostrano forti segnali di ripresa dell'attività economica, bene complessivamente l'area euro, anche se con valutazioni diverse. In Italia e in Francia il dato mostra un'attività economica in continuo deterioramento, il contrario invece accade in Germania e Gran Bretagna. La Commissione europea sta valutando le nuove modalità di assegnazione delle frequenze televisive decise dal governo italiano, che azzerano il beauty contest. Nei prossimi giorni darà la sua valutazione. In chiusura gli spettacoli. Esce nelle sale italiane Diaz di Daniele Vicari, già premio del pubblico all'ultima Berlinale. Secondo il regista, il film, che narra le violenze della polizia durante il G8 di Genova nel 2001, racconta una pagina nera della democrazia in Italia e in Europa. Sentiamo Vicari. Diaz perché nel momento in cui ho letto gli atti dei processi io mi sono visto dentro quella scuola e ho visto intorno a me crollare i principi fondamentali della nostra democrazia, e mi è sembrato proprio un dovere fare un film per raccontare questa sensazione, perché dentro la scuola Diaz e a Bolzaneto sono stati sospesi radicalmente, violentemente e continuativamente i diritti di decine e decine di persone, cittadini italiani e soprattutto europei, stranieri. E da questo punto di vista la cosa diventa ancora più grande, cioè mi fa domandare che cos'è la democrazia nel nostro continente, no? Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.